Comunque direi che possiamo iniziare con il nostro approfondimento per dare anche il benvenuto al nostro progetto ReArt, per la pace e contro la guerra, una chiamata per artisti, produttori, musicisti, scrittori, con la curatela di Radio Città Fujiko. È ben lieta di dare il benvenuto all'autore Michael Mirko, qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno, benvenuto e bentornato. Ciao, ciao a tutti. Intanto sei stato già assunto a tua insaputa per tutto ciò, però penso che condividi i contenuti. E, no, per quanto, riguarda invece l'esposizione già in essere in via del Pratello alla edicola che ben conosciamo, l'Inos edicola di via del Pratello, come è avvenuto questo incontro e cosa troveremo? Allora, nasce dal fatto che ho conosciuto l'eccezionale spazio di Inos edicola. L'ho conosciuto poco tempo fa, insomma, secondo me uno spazio eccezionale, vivissimo, nel posto giusto di Bologna, curato in una certa maniera. E l'idea è stata quella di mettere su una mostra di vignette tratte dalla prima pagina del manifesto. Abbiamo scelto vignette tratte dal tema più alla moda in questo momento, cioè la guerra. E l'esposizione sono 21 tavole, quindi tratte dalla prima pagina del manifesto, che parlano di guerra. L'occasione è per dare una mano a Emergency, è una cosa che avevamo già fatto la galleria, il tavolo luminoso a Pesaro sotto Natale. Quindi per ogni tavola che verrà acquistata, 50 euro verranno donati a Emergency per un progetto che ha sulla Palestina, di una clinica che hanno aperto a Gaza. È poco per aiutare chi sta facendo tantissimo, se non tutto, come quelli di Emergency, però insomma, con i fumetti questo si può fare. Oltretutto che questo lodevole motivo di impegno, la bellezza, ma la sensazione che l'autore è capace di dare attraverso gli aspetti di veramente devastanti che troviamo nella guerra e anche nelle ingiustizie sociali, ma anche con una dolce malinconia, mi permetto di dire, per trasformare questo incontro in una sintesi veramente molto capace di colpire. Tra le opere che troveremo nella sede espositiva, avremo anche modo di vedere un percorso in tutto ciò? Sì, il percorso c'è, perché sono tavole tratte da un anno e mezzo, da un anno, nell'ultimo anno. Chiaramente sono 21 tavole e nei miei scarabocchi in realtà poi non si parla mai della guerra, dell'esatta guerra, della guerra precisa, di questa o quell'altra guerra, ma si parla della guerra in generale. L'idea è quella di creare delle vignette che poi abbiano una vita più lunga della giornata, no? che sopravvivano alla notizia quotidiana, che parlino della guerra nel tempo, nel concetto di tempo. Però sì, c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento fondamentalmente. I miei personaggi poi sono sempre diversi, quindi alcune vignette parlano con un tono, altre ne parlano con un altro, la malinconia, la tenerezza sono cose che si impastano, sono linguaggi che si impastano con il dolore, la violenza, la sopraffazione e altri temi più direi schifosi, non sono altre parole. Certo. Però sì, in realtà non ho ben chiaro come quello che può arrivare allo spettatore, al lettore. Sono vignette che io ho fatto in un momento, in un contesto, e che hanno una vita più lunga, quindi credo che l'esperienza sia personale, come in realtà poi è quella di qualunque mostra, no? L'autore si illude di poter fermare in un'immagine questo, quel concetto, questo, quel riassunto emotivo, e poi in realtà il lettore, il fruitore è il vero padrone dell'opera, quindi probabilmente 100 persone porteranno 100 mostre diverse. Il tuo lavoro, io ti conosco artisticamente e ti seguo da tempo, come si è trasformato, ecco, per meglio dire, quali cambiamenti ha avuto, se ha avuto un cambiamento, pur mantenendo quel filo conduttore? Diciamo che i personaggi sono sempre stati infedeli a se stessi, facendo quello che vogliono. Io sono cambiato, come cambiano purtroppo le persone, in meglio, in peggio, diciamo che sono diverso. C'è un cuscinetto tra me e le mie opere che mi impedisce di identificarmi nei miei personaggi e ai personaggi, di raccontare quello che è il proprio autore. Sono cambiati, direi, più che altro i contesti dove i miei personaggi si muovono. Sono passati anni fa nelle autoproduzioni, poi sono finiti su internet, poi sono finiti nelle graphic novel, adesso sono arrivati sul manifesto, passando per Smemoranda, per una serie di contenitori per dannati di Linus. Credo che la vera differenza siano, come sempre, i lettori, il cambio, il contesto, il luogo dove uno incontra i personaggi. Questo, secondo me, cambia le carte in tavola, ecco. Per il resto gli autori non hanno nessun tipo di conoscenza e di attenzione su quello che fanno. Siamo in balia delle nostre opere e poi magari dopo tanti anni uno può girarsi, tirare un segno e capire dove è andato a parare, ecco. Ma in questo momento il marasma è talmente grande che cerchiamo di governare la barca il più possibile, ma senza avere nessuna rotta, nessuna meta. Sono i tempi che dettano, insomma, anche tutto ciò, di certo. Allora, è fino al 27 aprile 2025, va da sé, Linus Edicola, via del Pratello, i lavori che troverete in esposizione grazie all'autore Michael and Mirko e questo incontro che è decisamente un valore aggiunto, visto anche l'avvicinarsi della data del 25 aprile. Io ti ringrazio tantissimo per queste anticipazioni e questi approfondimenti e ci vediamo al Pratello allora. Grazie. Assolutamente. Grazie mille, grazie a tutti.